Effetto neve. Effetto neve con Massimo Di Scienza. In regia Carmelo Lauricella, in redazione Giorgio De Luca, alle 16.34 minuti 10 secondi. Buon pomeriggio, buona domenica. E allora partiamo subito. Ovviamente linea sempre aperta con il calcio, non temete. Tutti gli aggiornamenti in caso di novità importanti, interessanti, con il nostro Carlo Genta, che poi ritroveremo pochi minuti prima del GR delle 17 per i risultati finali. Allora, è stata una settimana molto intensa, molto interessante per quanto riguarda gli sport invernali in generale, non soltanto lo sci, che lo ricorderete ha archiviato i mondiali di Garmisch-Partenkirchen con uno straordinario bilancio per la spedizione azzurra, con le 6 medaglie che sono un po' il record da quando la manifestazione esiste insieme a Sestriere 97. Nel corso della settimana sono partite anche le edizioni dei mondiali importanti ad Oslo di salto di sci nordico, che hanno portato altre belle soddisfazioni all'Italia. Ne parleremo ovviamente insieme oggi. Nel weekend programma molto intenso in Coppa del Mondo di sci alpino, con la tappa maschile di Bansko in Bulgaria, questa sede nuova, tutta da scoprire, che aveva in Alberto Tomba uno dei testimonial più importanti. Pare che sia un posto molto molto bello da consigliare, con impianti nuovissimi, montagne innevate, quindi grande successo lì a Bansko, grande successo anche per Innerhofer, che ieri ha vinto la super combinata tornando a far trionfare un italiano in questa disciplina 35 anni dopo Gustav Theni. Oggi non benissimo invece gli azzurri in slalom. Le donne invece scendevano ad Ore in Svezia, qui una 3 giorni con super combinata, discesa e super G, qui i risultati insomma così così per le italiane. Questo è un po' il quadro generale. Per scendere nei particolari io mi affido come sempre alla grazia e alla competenza della nostra Elisa Calcamuggi, inviata di Sky Sport e anche un po' la nostra piccola inviata sulle nevi della Coppa del Mondo. Ciao Elisa, buona domenica. Buona domenica, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Elisa, per dovere di ospitalità salutiamo subito, a proposito di grandi inviati, Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, prima firma degli sport invernali del Corrierone. Buonasera Vanetti, grazie per averci raggiunto. Salve a tutti, salve anche Elisa. Eccoci qua. Allora Elisa, facciamo un po' il punto di questo fine settimana, no? Tra Bansko ed Ore è andata bene, dicevamo, agli uomini con il successo di Innerhofer, meno bene alle fanciulle. Riesci a riassumerci in un minuto quello che è accaduto sulle due piste così lontane eppure così vicine, diciamo così? Ci proviamo in un minuto. Beh, io direi che comunque agli uomini in Bulgaria è andata bene, è stato un weekend positivo, perché oltre al fatto di aver ritrovato comunque un Innerhofer in piena forma, adesso il problema sembra fermarlo. Anche oggi in slalom è vero, non siamo arrivati sul podio, però abbiamo questa giovane promessa dello slalom, Stefano Gross, che è partito col pettorale 42 e dopo la prima manche era quinto, quindi aveva già fatto vedere bene in stagione, perché anche a Garmisch ai mondiali nella seconda manche aveva chiuso col 13° tempo ed era arrivato 13° a Zagabria, e ora lo ritroviamo sempre fra i migliori in slalom e soprattutto con un atteggiamento nella seconda manche di una persona che non è assolutamente intimorita di essere adesso fra i migliori in Coppa del Mondo, e anzi se l'è proprio giocata, ha fatto degli errori, ha poi concluso 12°, però è importante vedere che ci sono dei ragazzi giovani, lui è classe 86, che stanno arrivando fra i migliori anche in Coppa del Mondo, quindi positivo comunque, un Innerhofer che si riconferma e in slalom un giovane talento, uno Stefano Gross che promette bene, anzi speriamo solo di recuperare Giuliano Razzoli, che invece è in difficoltà, sembra davvero che non riesca a ingranare, a ritrovare un po' un ritmo, dare un senso alle sue curve. Oggi dopo la prima manche era 13°, ha cercato di recuperare nella seconda ma è partito commettendo immediatamente dei gravi errori, arretrato, c'era anche Tomba al parterre che lo guardava e anche lui ha scosso la testa, perché in questo momento sembra irriconoscibile, quindi speriamo di recuperare Giuliano Razzoli. Per quello che riguarda le donne sappiamo benissimo che in velocità questa non abbiamo raccolto molto, abbiamo una Mirighetti che è sempre fra le prime 10, però non riesce a dare la zampata ad avvicinarsi al podio, e ci manca tanto Nadia Fanchini, che è stata operata proprio il 22 di febbraio al ginocchio, le hanno ricostruito il crociato anteriore del ginocchio sinistro, quindi credo dobbiamo aspettare lei. Oggi la migliore in super gigante, ed è stato il risultato più bello del weekend, è la Johanna Schnarr, che ha chiuso al 7° posto, altrimenti è stato un dominio delle solite Risch e Vonn, e in questo momento la Risch con la vittoria nella super combinata, il il terzo posto in discesa e il primo posto in Super G ha messo una, diciamo, ha ipotecato seriamente la Coppa Generale, che insegue da 3 anni, sempre secondo o terzo dietro la Von. Forse quest'anno è l'anno buono. Flavio Vanetti, detto che su Hinerhofer faremo un importante e dovuto focus nella seconda parte della trasmissione, quindi rimandiamo l'argomento velocità a tra qualche minuto. Qual è il dato secondo te che viene fuori da questo fine settimana, ma se vogliamo allargare il discorso anche dei mondiali di Garmisch-Partenkirchen, il buon livello medio della squadra azzurra maschile, queste assenze pesanti nella squadra femminile, qualche nome nuovo che viene fuori seppur a fatica, l'esplosione della Brignone, insomma, qual è secondo te in questo momento l'elemento, la notizia vera nella squadra azzurra di sci alpino? Beh, la notizia vera secondo me comunque si lega inevitabilmente in Hinerhofer, ed è secondo me proprio la dimostrazione che ha dato in super combinata, cioè la vittoria dopo quella un po' di abbuffate che si è fatto a Garmisch. Questo perché è importante? Perché prova una mentalità, prova che il ragazzo ha capito che cosa serve per diventare un atleta di un certo profilo, e queste sono le premesse secondo me per costruire qualcosa di importante. Poi se tu desideri appunto approfondire il discorso, in più in generale diciamo che forse questo mondiale, adesso anche questo appendice, sta dimostrando, allora il mondiale sicuramente ha dimostrato che la squadra non era poi così male come la Coppa del Mondo invece pareva aver sottolineato. Diciamo che forse in Coppa del Mondo quest'anno abbiamo scontato anche una serie di situazioni un po' particolari, sfortunate, e forse il fatto che non avevamo ancora trovato forse una vera locomotiva, adesso sembra che l'abbiamo trovato appunto in Hinerhofer. Vale il discorso che faceva Ravetto in tempi non sospetti: a noi manca un uomo da Coppa del Mondo, cioè manca una persona anche che dal punto di vista mediatico sappia aprire con una certa frequenza. Noi abbiamo avuto e abbiamo mai dei buoni sciatori, ma o monospecialistici o al massimo dedicati a due specialità. L'esempio classico è quello di Razzoli, quindi sciatori che appaiono una volta ogni tanto. Ci servirebbe un campione che ogni settimana, o comunque con una cadenza sicuramente superiore a quella del monospecialista, appaia e faccia parlare di sé. Ecco perché la figura di Hinerhofer è importante, detto che questa figura avrebbe voluto essere anche Phil, se non avesse avuto quell'incidente famoso che l'ha probabilmente bloccato nel momento della maturazione. Più in generale mi sembra che comunque la squadra abbia un buon livello, ripeto, senza fuori classe pazzeschi, però ad esempio la Brignone sembra in crescita, quindi una certa fiducia la bisogna avere. E come credo che, insomma, spero, mi auguro che prima o poi anche tra le donne si riesca a trovare del velocista, intendo, si riesca a trovare magari un talento che possa anche, come dire, dare una scossa al resto della squadra, che mi sembra in effetti ancorata a una sorta di mediocrità. E non ho idea, io mi glielo auguro che possa essere Nadia Fanchini questa ragazza, però dopo tutte le trove che ha avuto, secondo me tornare ad alto livello non sarà certo facile. Per quanto riguarda il resto, slalom, sicuramente abbiamo una squadra molto forte, giusto quello che diceva Elisa, abbiamo questa giunta di Gross che sta crescendo, e di questo me ne parlava Teolier proprio all'inizio del suo mandato. Lui parlava di Razzoli, parlava da recuperare, ma vedeva soprattutto in Gross una buona carta per il futuro. Vediamo, per adesso è chiaro che siamo ancora in una fase embrionale, ma diciamo che ci sono buone premesse. Il problema vero secondo me è ricostruire Giuliano. La stagione di Giuliano secondo me è sconcertante, ma non lo è soprattutto per la carenza di risultati, secondo me per l'atteggiamento. È vero che ha avuto l'infortunio, che sicuramente è capitato in un momento sbagliato, una fase cruciale della preparazione. Però mi sembra che Giuliano, se non capisce che deve dare una dimensione diversa alla sua realtà professionale di atleta, cercando di tenere ben separati gli aspetti agonistici da quelli, diciamo, del contorno, quindi il fan club, la famiglia eccetera, ecco, sarà un'occasione persa. La sua forza è sempre stata quella, come dire, di vivere in un ambiente sereno che gli ha dato stabilità e punti di riferimento, però adesso mi sembra che si stia un po' superando il limite, e si respira questo clima da Luna Park, da festa continua, e oltretutto ingiustificata, perché non c'è stato strascio di risultati degno di un campione olimpico. Elisa, anche... sottolineo il campione olimpico che ha sostanzialmente, non dico cancellato Alberto Tomba negli albi d'oro nel cuore, ci mancherebbe, ma colui che ha preso il testimone da Alberto Tomba, il primo olimpionico italiano maschile dopo Alberto Tomba, e non si può fare una stagione come quella che ha fatto Giuliano, con tutto il rispetto. Elisa, anche oggi, insomma, Bansko c'era, quello che il quello che Flavio Vanetti definiva un pochino tutto il contorno di Razzoli, c'erano parenti, amici, il fan club, eccetera eccetera, eppure anche oggi il risultato non è arrivato. Anche secondo te, diciamo, deve un pochino provare ad isolarsi rispetto a questo contesto Razzoli se vuole tornare a vincere? Allora, ma quando si parla con lui di questo argomento, lui la vive in maniera sempre abbastanza serena, nel senso che non sembra assolutamente giù di morale, anzi dice quest'anno è andata così. Anche Teolier dice che comunque lui è in forma, perché nelle gare l'abbiamo visto comunque che quando scende riesce a essere fra i migliori. Oggi non è successo neanche a Garmisch. Ha una famiglia che cerca di aiutarlo, forse si è trovato anche un po' soffocato da un meccanismo che pensava di riuscire a gestire in modo diverso, però non so se lui può essere un beneficio per lui il fatto che magari lo lasciano più tranquillo o altro. Bisognerebbe veramente che lui riuscisse a chiacchierare in famiglia per magari gestire la cosa in maniera diversa l'anno prossimo, perché ormai si parla di stagione prossima. Flavio, volevi aggiungere qualcosa? Ho sentito che... Sì, giusto quello che dice Elisa, anch'io sono dell'idea che, ripeto, quella sia stata la sua forza, avere la famiglia dalla sua gli ha dato probabilmente tranquillità in tanti momenti, anche in momenti difficili. Però anche Alberto aveva un club di appassionati che lo seguiva ovunque, anche loro goderecci, però Alberto riusciva secondo me a fare un tagliafuoco rispetto al fan club e a un certo clima, cioè quando era il momento di bastonare, bastonava, e questo è quello che deve imparare a fare Giuliano. Va bene tutto il contorno eccetera, ma la sensazione che mi ha dato, e è stata molto netta quest'anno, è che lui in questo momento sta scendendo per il suo fan club, non per se stesso, e quindi, ripeto, non voglio colpevolizzare questi ragazzi, questi 200 passo appassionati che ogni settimana si prendono il loro bel pullman, anzi ogni 15 giorni quando ci sono le gare, e si fanno chilometri e chilometri in giro per l'Europa. È bellissimo, è encomiabile, è un qualcosa di unico, però rischia di essere anche un rovescio della medaglia troppo pesante, e comunque la sensazione è quella, ecco, lui deve smentirsi in un'altra maniera. Non so se Flavio Vanetti ha ancora qualche minuto da dedicarci per il forum, così l'approfondimento. Pochissimo. Perché purtroppo adesso stanno arrivando le pagine, bisogna... E allora facciamo così, ci fermiamo subito per il traffico, poi rientriamo per parlare dei segreti dell'alta velocità azzurra. Effetto neve. 16:47 minuti, 25 secondi, dietro le vittorie di Innerhofer c'è ovviamente un ragazzo straordinario, un grande atleta, un grande professionista, ma anche un team di primissimo livello che lo segue ormai da tempo e che ne ha fatto crescere, fatto maturare passo dopo passo gli elementi migliori fino ad arrivare all'esplosione definitiva di questa stagione. A capo di questo team c'è Gianluca Rulfi, che è responsabile della velocità della nazionale azzurra e che è in collegamento con noi questo pomeriggio. Buon pomeriggio. Buonasera. Appunto, benvenuto Rulfi. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Rulfi, che Vanetti e Elisa Calcamungi ben conoscono. Allora, visto che dobbiamo congedare Flavio Vanetti, Flavio, ti lascio, se vuoi, una domanda così inaugurale per l'intervento di Gianluca Rulfi. Da cosa vuoi partire? Ma vorrei partire dai complimenti e congratulazioni, sicuramente. Chiaramente va da sé, perché sicuramente c'è un lavoro appunto alle spalle che sta dimostrandosi vincente. Ecco, la domanda vera che gli vorrei fare è se rimarrà, oppure se però questo sfonda un profilo un po'. Vabbè, proviamoci. Diciamo, però. Allora volevo sapere il suo parere su queste vicende azzurre che ben conosciamo, queste polemiche, questa situazione di Ravetto, e poi in particolare invece su Innerhofer, che cosa a suo giudizio deve fare il ragazzo per completare questo percorso di maturazione. Rulfi. Pronto? Eccoci Rulfi. L'ho sentito un po' astratti, eh? Allora ripeto, la prima parte della domanda riguarda il futuro della vostra struttura da Ravetto appunto a te, e capire appunto cosa succederà. Se Ravetto è stato molto chiaro nel fare le sue previsioni, volevo capire appunto un tuo parere in proposito, e la seconda parte invece che cosa deve fare Innerhofer per completare questo percorso di crescita e per diventare davvero un polivalente in grado di puntare alla Coppa del Mondo. Certo, dai, cominciamo con la prima. La prima chiaramente sul... Pronto? Sì, sentiamo, ti sentiamo. Sono in Bulgaria, quindi no, c'è qualche ritorno un po' strano. E dicevo, sul discorso Claudio Ravetto e su tutta la struttura, chiaramente lui ha fatto secondo noi un buon lavoro, secondo noi tecnici, perché chiaramente ha cercato di mettere in primis l'attività e quindi il nostro lavoro e gli interessi dei ragazzi. Poi lui ha chiesto banalmente alcune cose appunto per far funzionare al meglio la struttura, cose molto pratiche, quindi poter avere un referente che si occupi veramente delle cose che interessano a noi e quindi possa riferire al 100% e controllare al 100% che siano fatte come da programmi, diciamo, che si fanno all'inizio normalmente quando si fa programmazione. E quindi ha chiesto cose molto semplici. Lui insiste nel voler rimanere in un ruolo di coordinamento e secondo noi potrebbe farlo al meglio e ci ha dato una grossa mano in questo ruolo qua. Non c'è questa intenzione da parte della federazione, che sembra che voglia ritornare a una doppia direzione agonistica, però la frammentazione non aiuta poi alla fine a risolvere veramente alcuni problemi reali, pratici, che appunto Claudio ha centrato e sul quale c'è stato lo scontro. Ecco. E per quanto riguarda il futuro di Innerhofer, non tanto il presente e il passato? Ma il futuro, lui era già un atleta, adesso è esploso quest'anno, chiaramente l'attenzione dei media in maniera così fragorosa e immediata lì ai mondiali, però ricordiamoci che 2 anni fa al mondiale di Val d'Isère aveva già fatto quarto in super gigante, aveva già vinto Bormio, aveva già fatto una buona stagione, poi l'anno scorso ha avuto degli infortuni, diciamo che è arrivato alla maturità come qualsiasi atleta, arriva a un certo punto che arriva al suo target di maturità. Chiaro che adesso deve mantenersi, ha capito che può vincere, ci si sta trovando bene, quindi penso che questo aiuti molto a trovare appunto la sua stabilità in questo ruolo di primo attore. Allora, io saluto e ringrazio Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Flavio, mi sembra di capire che difficilmente rivedremo Ravetto la prossima stagione sulla doppia panchina. Non so, mi sembra dalla risposta di Rulfi. Sì, temo purtroppo anch'io sì. Tutto congiuro in quella direzione. Io spero che alla fine ci sia il colpo di scena illuminato e illuminante, però temo che non sarà così e questo è sicuramente un errore grave che rischia di avere delle pesanti conseguenze e qualcuno dovrà pure assumersi le sue responsabilità, e in questo qualcuno io identifico anche il CONI nel senso di preparazione olimpica, perché credo che interrompere adesso un percorso avviato, so che è ancora lontana, però non tanto lontana, sia comunque sbagliato, perché si avrebbe buttato via comunque un anno e ricominciare da capo avendo solo 2 stagioni davanti anziché due o tre stagioni, quella 2014 non contiamolo perché è quella che porterà all'Olimpiade, quindi non è una stagione di lavoro, di semina, di preparazione, ma semmai di raccolta. Quindi credo che se succederà questa cosa non sarà un bel fatto, e mi auguro che anche in extremis il buon senso abbia il sopravvento, ma temo che non accadrà purtroppo. Non c'è dubbio, grazie a Flavio Vanetti, ti leggiamo sul Corriere della Sera, buona domenica e buon lavoro. Elisa Calcamuggi, con te proprio ieri parlavamo così in privato e ci chiedevamo quale potrebbe essere il personaggio che meglio può raccontare l'esplosione di Innerhofer, e alla fine tu mi hai fatto un nome. Gianluca Russi. Eccolo qui, è a tua disposizione. No, io volevo chiedere, visto che parliamo del futuro di Innerhofer, sappiamo che è anche molto bravo in gigante, infatti oggi è stato a riposo nello slalom di Banco, anche se l'iscritto ha scelto di non partire, però il suo prossimo appuntamento è lo slalom gigante di Kranjska-Gora, e quindi visto che stiamo cercando di puntare su un atleta che possa essere competitivo in tutte le gare, cosa possiamo aspettarci da Innerhofer in gigante? Ravetto ha detto è uno che può andare forte nei piani, e sappiamo che voi avete fatto questo lavoro quest'anno, avete iniziato a fare questo lavoro specifico proprio di riuscire a fare in modo che i nostri atleti siano vincenti anche nei tratti pianeggianti. Buonasera Elisa, ho sentito la domanda, spero di averla capita bene, perché di nuovo sento a strappi. Proviamo. Il discorso di Inera breve sul discorso del gigante, chiaramente questa è un po' una stagione da lavoro in corso. Lavoro in corso perché? Perché lui appunto rientrava da questo infortunio, quindi ci siamo concentrati maggiormente su alcuni aspetti, che era quello di ritornare a un certo livello sulle sue discipline, diciamo dove poteva eccellere, quindi la velocità e quindi il super gigante e la discesa, con un discorso sulla sua super combinata. Chiaramente il gigante si abbina molto a questo filone di preparazione, non ci abbiamo ancora lavorato molto quest'anno e sinceramente se farà Kranjska Gora, perché è ancora molto in forza, perché il fine stagione da lì in avanti abbiamo ancora tante gare con Quizzi, le finali, sarà comunque un gigante dove anche lì per caratteristiche quel gigante non è così facile, quindi non è proprio uno slalom magari super adatto alle sue caratteristiche, però insomma andrà per ricominciare a trovare i ritmi in una gara di gigante di Coppa del Mondo, che è anche importante quello, e poi ne parleremo seriamente nella prossima stagione chiaramente. Allora tutto rimandato. Grazie allora Gianluca Rulfi, responsabile dei discesisti azzurri. Magari ci risentiamo in un'altra occasione per allargare un po' il discorso dei Nerofer alle altre punte di diamante che la nostra squadra ha. Non dimentichiamo Peter Phil e tutti gli altri. In bocca al lupo, buon lavoro e buon rientro dalla Bulgaria. Grazie ancora. Grazie anche ad Elisa Calcamugi. Elisa, ci eravamo riproposti di parlare anche un po' della Rungaldir, della Follis, che hanno vinto medaglie importanti ad Oslo. Però, come si dice, che il tempo è tiranno, ne riparleremo un'altra volta. Noi ci ritroviamo domenica prossima, come sempre, a partire dalle 16.30, 16.32 o giù di lì. Ci trovate a quest'ora. Adesso ci sono novità importanti e belle succose per quanto riguarda il campionato di calcio. Non bellissime, mi sembra, per la Roma. Vabbè, ci dice tutto Carlo Genta. Noi ci ritroviamo domenica. Ciao. Eni vi ha presentato Effetto Neve. Effetto Neve.